Sezione 10 di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Raffaella. Figurine vecchie. Qual dalla madre battuto pargolo o d'improterva rissa maldomito stanco s'addorme con le pugna serrate e i cigli rannuvolati, tal nel mio petto l'amore o candida l'alage dorme. Non sogna o invidia s'al roseo maggio erran giocando gli altri felici pargoli al sole. Oh, nol destare, ludresti o l'alage, di torbidire fiedere l'aere, rompendo i giochi a lieti eguali. Dio di battaglia per me l'amore. Fine della sezione 10. Registrazione di Raffaella.